narcano poder, nel tuo cor lo mio cuore ha tremato, ma lo lezzo corbato il pensier, nelle vaghe movenze che c'ho. Non mi vedo da passare.